Ecco, adesso che avete sentito qualche canzone del disco, cosa ne pensate? Cioè, cosa ne pensate di Mozart? Sta zitto e siedi! Oh, fanculo! Zitto, divertente! Sei un pervertito! Tu sei solo un pezzo di merda! Sei uno stronzo! Ho paura! Il tuo destino è cantare! Ma come ti vengono queste stronzate? Sai cosa ho pensato? Che aprirò una casa discografica? Pensi sia cotto il cervello! È completamente fuso! Tante libretti! E voi? Bastardo! Ti piace, ti gioca!